Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua, un'ora intera insieme ai Padri Eterni, fino a mezzogiorno per parlare di padri, per parlare di paternità, per raccontare un po' anche quella che è l'attualità con questo sguardo, che è il nostro sguardo appunto da papà, anzi oggi dovremmo dire da babbi anche, capirete. Attenzione. Sì, capirete poi nel corso della puntata perché. Radio24.it il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast, Padri Eterni @radio24.it se volete contattarci. Tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina Facebook, I Padri Eterni di Radio 24. È stata una buona settimana, Matteo? Sì, sì, ma guarda Fede, per la nostra famiglia è stata una settimana di piccole rivoluzioni domestiche. Attenzione. Ti dico solo che adesso la nostra figlia maggiore ha finalmente il suo primo letto matrimoniale, insomma due piazze, ecco. E lei è felicissima, in camera non si cammina più, si fa fatica ad aprire la porta, bisogna camminare rasente al muro, però abbiamo imparato che, come dire, la gioia è una condizione abitativa più importante della funzionalità. Ecco, mettiamola così. Okay, ricordiamo che insomma la casa Bussola è una casa particolare perché i cani già avevano il loro letto matrimoniale. Esatto. Perché prima i cani, poi se c'è spazio. Okay. È stata anche la settimana di San Valentino, che non so se sono entrati cuoricini. Guarda, non farmi dire. Okay, non bene. Farmi dire. Parleremo anche di questo nel corso della puntata, con un taglio molto particolare, appunto l'amore raccontato ai nostri figli e perché c'è bisogno dell'amore. Ma adesso partiamo e insomma la puntata di oggi credo che la parola partenza sia proprio la parola giusta, perché partiremo a bordo di una 500. Quante cose ogni giorno si sentono, oggi i soldi non bastano più, ricordiamoci quando bastavano 1000 lire per vivere un po'. Sembra ieri che tutto era facile e la vita era semplicità, non servivano carte di credito per andare un po' fuori città. 500. Non so dove il nostro Danilo di Trani abbia trovato questa canzone, cioè, ci sorprende sempre, nel bene a volte un po' meno, in questo caso un po' meno, però insomma un bel pezzo che introduce questa parola che è 500 ed è un regalo particolare che un figlio si è fatto in onore del padre. Una storia che abbiamo letto sul Giornale di Vicenza, siamo a Castel Gomberto in provincia di Vicenza appunto, e diamo il benvenuto a Nicola Caicchiolo. Ciao Nicola, buona domenica. Eccolo qua, ciao Nicola. Allora, hai acceso e spento soprattutto 500 candeline per il compleanno di tuo padre, per il tuo compleanno anzi. Sì, proprio così. Sì. Com'è andata questa storia? Raccontaci. Praticamente ho trovato questa 500 passando praticamente su una strada e mi pareva che fosse la macchina del papà che aveva preso 50 anni fa, praticamente quando sono nato io nel 68. Sì, era stato a novembre, mi diceva che l'aveva presa, difatti dopo nel libretto ho visto che era novembre e io nascevo a dicembre, sono nato il 29 dicembre e ho visto questa 500, ho detto è quella di papà questa qua, e sono andato a informarmi, a vedere un attimino, e gli ho chiesto di questa macchina di chi era e non abbiamo visto il libretto e c'era scritto Caicchiolo Antonio. Sul libretto di prima immatricolazione. Cioè tu l'hai riconosciuta a prima vista? Mi pareva, che ho un po' curiosato e ho visto che era lei. Cioè quindi tu hai riacquistato la vecchia auto di tuo padre di quando tu eri bambino sostanzialmente? Sì, sì, beh, la vecchia, la nuova, perché l'aveva appena l'ha presa nuova 50 anni fa. E io ho riacquistato quella macchina lì che lui aveva preso come prima macchina. Perché prima andava via in ambretta e poi, siccome nascevo io, dovevo portare sto pargolo in giro per il mondo, per l'Italia, e ho preso la 500, eccola lì. Ok, questa storia poi adesso ha due passaggi. Il primo è, hai comunque dovuto convincere il proprietario di questa 500 a vendertela. Come hai fatto? Allora, gli ho spiegato un po' la storia, ho detto guarda che la macchina di mia papà e bla bla bla, cioè, gli ho portato un pochettino, dai vendemela, ho insistito un pochettino e subito mi ha detto di no, e allora io ho detto va bene, lascia stare, non è che ho bisogno di una 500, no? Però ho insistito abbastanza, sono stato abbastanza E dopo 2-3 mesi mi chiama e mi dice: guarda, voglio 500, perché praticamente lui aveva trovato un'altra occasione e allora mi ha dato la possibilità di prendermi questo 500 e ho preso il 500, eccola lì, di papà. E poi insomma il secondo passaggio fondamentale è stato quando ti sei presentato sotto casa, sotto la finestra di tuo padre con la 500. Sì, lì è stato un po' da ridere, perché praticamente io ho preso questo 500 e ho suonato praticamente sotto e gli ho detto, mi ha sbarato due occhi belli tosti, ha riconosciuto il numero di targa, dove va del 500, e lì siamo andati a farci un giretto. Ho detto, dai, salta su vecchio, e siamo partiti e siamo andati a fare un giretto. Beh, ma sarà stato emozionatissimo, cioè tuo padre ha 73-74 anni adesso, quanti ne ha? Mio padre è 45, dunque ne ha 75 quest'anno. 75, beh, insomma, deve essere stata una cosa. Ma ascolta, ma il proprietario, quello da cui hai acquistato l'ex macchina di tuo padre, sì, sapendo che per te, insomma, questo veicolo aveva un valore affettivo importante, se ne è approfittato un pochino oppure... Ci ha giocato un po'. Sì, ma una cosa leggera, è stato anche bravo. Sì. Comunque, insomma, immagino l'emozione di tuo padre, immagino anche i tanti ricordi, no, dei vostri viaggi anche fatti insieme. Perché dopo io ho delle foto proprio, io con la 500, ho proprio una foto che sul giornale ha messo proprio che sono io da piccolino, no, quando avevo un anno e mezzo, due, che andavamo a Caorle in vacanza con la 500, con il portapacchi e le valigie caricate tutte sopra, no? Come la famiglia Fantozzi, hai capito? Nicola, praticamente l'hai fatto ringiovanire. Sì, ho tirato via un po' di anni, sì. Mi sono tirato via anch'io un po' d'anni, comunque, perché da piccolino vedermi seduto al volante che lì facevo, che giocavo, e adesso me la guido adesso. Adesso ho detto, mi sono fatto il cabrio, così quest'estate vado via con il cabrio. Ringraziamo Nicola Caicchiolo, ritrova dopo 50 anni la Fiat del papà e le riacquista. Questo è l'articolo uscito sul Giornale di Vicenza e Nicola è stato qua con noi per condividere questa grande piccola storia. Grazie davvero Nicola, ciao e buona domenica. Grazie, ciao, a voi, Nicola. Buona domenica a voi, ciao. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà l'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore, la mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Beh, Matteo, non poteva che essere questa canzone a introdurre il prossimo ospite, il prossimo papà? L'ho visto da poco, insomma, ci conosciamo e l'ho chiesto: dai, ma qual è una cosa che proprio ti piace fare con tuo figlio? Non avevo finito la domanda che lui ha risposto immediatamente ed è stata pescare. Diamo il benvenuto a quel gran pescatore di Carlo Conti. Ciao Carlo. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Ciao Carlo, tutto bene. Ho fatto un errore però, eh. Sì. Hai detto il papà che abbiamo lì, invece scusi, il babbo. Hai ragione, che abbiamo in linea. Hai ragione. Non si può dire papà con Carlo. Non si... perché insomma è così. Tu sei babbo, vero? Per sì, tuo figlio. Sì, i fiorentini, per un fiorentino dire babbo è fondamentale. Papà proprio non esiste. Ho mai sentito dire papà Natale. Dice babbo Natale. Bravo. Ci sarà un motivo. O forse babbo Natale è fiorentino, chi lo sa. Esatto. Carlo Conti, noi tutti ti conosciamo, sono un grande professionista della televisione, reduce dal successo teatrale e anche televisivo di Venerdì Sera insieme ai tuoi amici, a Pieraccioni, a Panariello, con cui avete veramente girato l'Italia con questo spettacolo. Ma tuo figlio, quando ti vede in televisione, cosa dice? Beh, no, questo spettacolo spettacolo l'ha vissuto, e forse il primo spettacolo l'ha vissuto anche in maniera teatrale, cercando ogni tanto di capire il significato, non so, quando mi vesto da Maranda, il perché, il per come, il babbo si veste in quel modo lì, ma è curioso su, per esempio, cose come tale quale, questa cosa dell'ascensore che trasforma le persone, oppure mi piace molto la corrida, che inizierò appunto venerdì prossimo con tutti questi personaggi strampalati e poi che la gente che fischia e fa gli applausi. Le cose più coinvolgenti ovviamente le apprezza di più, sono più a misura bambino. Ma tra l'altro, Carlo, tu diciamo sei diventato padre in età, diciamo così, non più giovanissima. Volevi dire vecchio. No, mi chiedevo, sai, perché... No, in effetti abbastanza, ci ho messo tanto per capire come si fa, adesso ho capito, insomma, un po' avanti. Apprezzo più certe cose, probabilmente, sono più in ansia per altre, probabilmente, no? Perché l'età ti fa apprezzare tante cose, tante piccole sfumature che probabilmente da ragazzo avrei perso, o perché pensi anche a mille altre cose. Adesso invece è tutto concentrato intorno a lui e alla famiglia, e soprattutto però anche mi mettono paura più tante cose, no? Sei più ansioso per certe cose. Da ragazzo probabilmente sei più spensierato e quindi non fai caso se casca o batte la testa o scivola o se c'è un pericolo. Adesso sì, hai anche mille paure di questo tipo. Ma a casa tu la fai la corrida con tuo figlio? Cioè ogni tanto capita che anche tu ti esibisci? No, ma soprattutto, per lui. Soprattutto gioco a pallone e rompo i vasi per la gioia della mamma. Uno qualche giorno fa con una pallonata. Poi il bello è che se la rompe lui, punta subito il dito a me come stato di babbo. Capito? E io viceversa, se succede cose è stato lui. Siamo due bambinoni che ci mettiamo a giocare a pallone in casa. Tornando a questa cosa del babbo, no, nel tuo caso questo nome, diciamo, non viene pronunciato solo da tuo figlio, ma anche dalla figlia, no, del tuo grande amico Fabrizio Frizzi, insomma, scomparso recentemente. Stella ti chiama Babbo Conti. No, ma mi chiama Babbo Carlo perché Fabrizio mi chiamava così. C'è stato un momento, insomma, molto, siamo stati molto vicini professionalmente per tante cose, quando c'è stata la staffetta all'eredità, e quindi Fabrizio affettuosamente mi chiamava Babbo Cardo, tutto attaccato. E per Stella, che era piccolina, pensava fosse il mio nome, fosse realmente mi chiamassi Babbo Carlo. E quindi è rimasta questa cosa che comunque mi riempie il cuore di gioia nella tristezza di questa clamorosa perdita. Carlo, mi chiedo, poi, e poi babbo è la parola, penso che io, mio babbo è morto che avevo 18 mesi, quindi non l'ho neanche conosciuto. Curiosamente ho sempre detto che la parola che io non ho mai detto negli ultimi anni è quella che sento con più frequenza, cioè. Perché Matteo mi chiamerà 700 volte al giorno, babbo, fa questo, babbo, e quindi è bella. È molto emozionante anche questa cosa. E ti è mai capitato di dire a tuo figlio quella cosa che credo che per un conduttore televisivo sia quasi una bestemmia, del tipo spegni la televisione, non guardare la TV? Adesso è l'iPad che è la vera cosa che guarda. Naturalmente è un seguace dei me contro te, e di mille altre cose, però ecco, devo dire che glielo lascio fare quando soprattutto guarda le cose di pesca del nostro amico Saverio Rosa o di altri grandi pescatori che raccontano le loro battute di pesca. Allora in quel caso non solo glielo faccio guardare, ma mi metto anch'io a guardarlo con lui queste meravigliose avventure di pesca. Ogni tanto però, se ci vuole, spengi, perché sono un pochino troppo attratti da questo oggetto. Carlo, senti, tu sei stato un ragazzo, diciamo così, che insomma tuo padre è scomparso presto. Questa cosa nella tua paternità di oggi, no, influisce in qualche modo? Cioè, senti di dover recuperare qualcosa? No, soprattutto non so come si fa. Credo che ciascuno di voi, ad esempio, non lo so, magari fa il genitore un po' seguendo nel bene o nel male quello che ha fatto il proprio genitore, no? O fa il contrario, o fa la stessa cosa, o riporta un po' quello che ha fatto. Io, non avendo questo tipo di esame, magari gli riporto più quello che ha fatto la mia mamma, insomma, ma insomma con mia moglie, con Francesca, ci stiamo dividendo bene i compiti, e credo che sia una cosa naturale che ti viene da fare come te lo dice il cuore di farla, e quindi sei genitore a 360 gradi, per quello che è il tuo modo di essere, per quello che hai imparato, per i tuoi valori e per la tua educazione, quindi cerchi di trasferire al figlio il tuo modo di vivere. E quando vai a pescare prevale la parte dell'essere pescatore o dell'essere padre? Cioè perdi la pazienza ogni tanto? Perdo la pazienza ogni tanto perché mi fa anche arrabbiare, perché più fortunato di me prende più di me. Ok. Pensa soltanto che io nella mia vita finora non avevo mai pescato un tonno, sono andato in barca con lui e sono riuscito a pescare un tonno, quindi roba da fantascienza, proprio l'ultimo giorno peraltro dell'apertura della pesca al tonno. Fantastico. CarloConti.net è il sito per tutte le informazioni. Ricordiamo, dalla prossima settimana di nuovo in onda con La Corrida, quindi ci sarà i famosi dilettanti da divertirsi. Perché è uno spaccato del nostro paese, molto, se vuoi provinciale, però molto vero, molto umano, dove ancora i rapporti umani sono vivi, dove non ho mai avuto un concorrente che fischiato, bordate di fischi, sia andato via triste, perché comunque c'è poi comunque l'applauso finale ed è soprattutto la gioia di esibirsi, è proprio, sono i primi a prendersi in giro e a prendere in giro. E questo insomma lo si vede e lo si vive. Grazie Carlo, buona grazie domenica. Grazie a voi ragazzi. Ciao, grazie, ciao, ciao. Carlo. I think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Matteo, ti avevo anticipato che avremmo cavalcato anche noi l'onda di San Valentino, e lo facciamo prendendo spunto da una bellissima iniziativa che è stata organizzata a Roma. L'obiettivo era quello di riscoprire l'importanza dell'amore nell'educazione dei figli, no? Che sembra quasi scontata come cosa, perché insomma l'amore la si dà per... Non è così scontata, perché in realtà spesso si mette al centro altro, no? Le regole, la disciplina, insomma, ci si scorda del lato affettivo. E invece con questo evento intitolato Genitore col Cuore, promosso dall'associazione Insieme a Te, in collaborazione con la scuola Mela Bimbi di Roma, appunto si è messo al centro la parola amore. Lo si è fatto con Alessandra Bortolotti, che è una psicologa dello sviluppo e dell'età evolutiva, esperta di educazione, autrice di diversi libri, tra i quali ricordiamo Genitori di Genitori, edito da Mondadori, a cui diamo il benvenuto qui ai Padri Eterni. Ciao Alessandra. Ciao, ciao. Benvenuta Alessandra. Grazie mille. No, viene da pensare, è ovvio che ci debba essere l'amore tra genitori e figli, ma qual è l'amore appunto che tu hai raccontato in questo evento? È un amore che tratta dell'educazione affettiva e in realtà si pensa sempre, appunto, come avete detto voi, a regole, metodi soprattutto, ma ci scordiamo un po' anche quelli che sono gli istinti sia di padri, madri, di coloro che stanno con i bambini. E la buonissima notizia è che abbiamo dentro di noi, chiunque, delle magiche sostanze guaritrici e anche che stimolano proprio l'educazione affettiva dentro di noi come patrimonio dal primo momento in cui nasciamo e anche prima, anche già dall'età uterina, e una di queste è l'ossitocina. Ecco, quindi noi ieri abbiamo parlato tanto di questa magnifica sostanza che è studiata poco, purtroppo, è studiata soprattutto nei suoi parametri di riflessi di eiezione, cioè per far uscire il bambino, per far uscire il latte, e visto che siamo in una trasmissione di padre, anche per far uscire il liquido seminale maschile. Ma in realtà, oltre a questi magnifiche proprietà, questa sostanza che non è mai secreta da sola e che quindi è sempre in un cocktail, diciamo, di amore, ha anche a che vedere con i comportamenti. Quindi i comportamenti significano comportamenti proprio di connessione, cioè favorisce la connessione, la relazione, l'attaccamento e il sistema che si chiama di calma e connessione in bilanciamento appuntamento con quello dell'attacco e fuga che tutti conosciamo, cioè relativo allo stress, all'aggressività e a tanti aspetti invece più studiati. Ok, Alessandra, ti fermiamo un attimo e chiediamo spazio alla pubblicità e al meteo, poi torniamo da te, perché questa cosa che esiste anche un aspetto scientifico nell'educazione, no? Raramente viene ammesso, diciamo, perché c'è quasi una sorta di la scienza non c'entra, c'è solo l'emotività, che va benissimo e ci deve essere, c'è solo il comportamento, no, c'è anche un aspetto scientifico, però è un connubio, no? E, insomma, ci fermiamo e poi ci dai qualche esempio pratico per capire noi padri come e in cosa possiamo migliorare. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni. Stiamo parlando di amore, ma stiamo parlando di quell'amore lì, no? È stato appena citata l'ossitocina, come i nostri comportamenti, le nostre azioni possono produrre cambiamenti. No, ma tra l'altro, leggendo la relazione di questo evento, no, Alessandra, c'è una parola che mi ha colpito molto: salutogenesi. Cioè, che cos'è questa salutogenesi e perché la relazione padri-figli è una delle relazioni privilegiate in cui possono essere gettate le basi di questa disciplina, non so come definirla. Sì, infatti, questa è una cosa molto interessante di cui si occupano proprio le neuroscienze, ovvero noi parliamo spesso, sentiamo dire la prevenzione del rischio, no? E questo ci pone l'accento sulla malattia, sul rischio, oddio, fa paura, mi ammalerò, trattengo il fiato, e quindi sono connessa a quello che dicevo prima, al sistema dello stress. Se invece io cerco di capire come promuovere la salute, anche solo dirlo già ci dà una impressione diversa. E allora, sapere come stimolare sostanze come l'ossitocina, le endorfine e tutti quel cocktail di ormoni che abbiamo dentro, per esempio appunto anche per i papà, può aiutare a generare proprio salute affettiva, ma anche salute proprio fisica, perché le difese immunitarie sono più alte e quindi ci si ammala anche di meno. E questa non è un filone new age, è proprio studiato. Per esempio, c'è questa ricercatrice molto famosa che ha scritto più di 400 articoli, libri, eccetera, sull'ossitocina, sugli effetti comportamentali, e sappiate che in Italia abbiamo solo un libro di questa autrice, nonostante che l'abbia studiato ormai da più di 40 anni. Questo, insomma, rende chiaro, no? Rende chiaro l'idea. È come se venisse considerato superfluo costruire salute e invece molto più importante, ed effettivamente lo è importantissimo anche curare la malattia, ma se noi cerchiamo di conoscere queste sostanze, che le possiamo proprio chiamare guaritrici, probabilmente anche i tassi di malattie si abbassano, questo lo sappiamo per certo. Ma c'è qualche consiglio pratico, qualche esercizio che ci consigli di provare? Allora, tutto quello che fa stare insieme e fa stare bene aiuta a secernere l'ossitocina. Per esempio, prendere in braccio il proprio bambino, starci insieme, fregandosene del lovizi, le regole, quello. Cioè, se stai bene, tutti stiamo bene, possiamo stare abbracciati, possiamo dormire insieme in sicurezza, se il bimbo è piccolo, possiamo fare una bella passeggiata, il contatto con la natura, l'ascolto della musica, tutto ciò che stimola ciò che ci fa stare bene. Per me può essere una cosa, per qualcun altro può essere un'altra cosa, ma connettersi con una relazione che fa stare bene. Ecco, quindi ognuno saprà cosa fa stare bene, no? Quindi... Ma tra l'altro, Alessandra, possiamo anche, come dire, sdoganare finalmente un tabù, no? Tu parlavi appunto di relazione parentale, affettiva, padre e figlio, anche la relazione corporea, no? Che di solito viene vissuta quasi come un privilegio delle materno. Madri, no? Materno. In realtà invece è proprio importante il contatto pelle a pelle, padre e figlio, stringersi, abbracciarsi, non avere paura di manifestare la propria affettività e la propria... Importantissimo, e i bambini lo ricercano tanto, i bambini e le bambine, Per esempio, ci sono degli studi che dicono che se dormiamo nella stessa stanza, i respiri si sincronizzano, quindi è come se il mio respiro, se io dormo insieme a mio marito, al mio nuovo fidanzato, piano piano si sincronizzano, cioè entriamo proprio in risonanza. E queste sono competenze delle persone che stanno vicine, quindi ce le siamo un po' scordate, ponendo troppo l'accento su cosa non dobbiamo fare, su quello che ci può far ammalare, che è importante, ma abbiamo anche un'altra possibilità, che è quella di sapere come dentro di noi abbiamo già delle risorse da poter attivare. Ringraziamo Alessandra Bortolotti, alessandrabortolotti.it, per tutte le informazioni. Ricordiamo Genitori col Cuore, promosso dall'Associazione Insieme a Te in collaborazione con la scuola Mela Bimbi di Roma. Grazie davvero Alessandra, grazie, buona domenica. Mille. Ciao ciao. Grazie Alessandra. I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth. Shut my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in the dirt, 'cause I'm a traveler. Abbiamo aperto questa puntata parlando di un figlio che ricordava i viaggi in macchina con la vecchia 500 insieme al padre. Adesso continuiamo a viaggiare mettendo al centro una parola importante, che è la parola cambiamento, che è quella parola che molte volte, no, irrompe nelle nostre vite, soprattutto quando magari c'è una separazione, no? Tanti papà separati sono protagonisti delle nostre puntate, e la parola cambiamento ci sta con tutte le sue facce, no? Con certo, tutte le sue fatiche che si porta dietro, ma anche con tutti i suoi stimoli, e in questo caso è stato proprio uno stimolo forte e che ha portato a macinare un sacco di chilometri. Diamo il benvenuto a Beppe Lamberto, è un blogger e anche scrittore, perché questa sua storia è diventata anche un libro intitolato Papà Travel Experience, stesso nome della sua pagina Facebook e del suo profilo Instagram, dove appunto racconta la sua esperienza di papà viaggiatore. Ciao Beppe, benvenuto ai Padri Eterni. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Beppe. Buongiorno Matteo, buongiorno Federico, grazie per l'ospitalità. Partiamo dal primo viaggio, cosa è successo? Cosa è successo? Allora, dopo la separazione ovviamente mi sono ritrovato ad avere molto meno tempo a disposizione con mia figlia, e quei pochi weekend che passavamo insieme mi rendevo conto che non mi davano... mi mancava qualcosa, non riuscivo a capire cosa, ma c'era qualcosa che mi mancava, fino a quando non mi sono reso conto che il tempo che passavamo insieme effettivamente ci limitavamo a passarlo anziché viverlo, e quindi ho pensato che forse andarsene per un weekend poteva essere la soluzione per metterci un attimino in gioco, e da lì è nato tutto. Quindi siamo partiti per questo campeggio che doveva essere all'Isola d'Elba, poi siamo finiti a Viareggio, e lì ho capito che viaggiando con mia figlia avevo la possibilità di vivere il tempo in maniera differente, di costruire veramente un rapporto che la mancanza di tempo mi limitava, insomma, in sostanza. Beppe, guarda, a me quest'estate è capitato di andare al mare da solo, senza mamma, con le mie tre figlie, età 6, 8 e 12 anni, e lo dico con grande simpatia, è un'esperienza che non sono intenzionato a ripetere. Che cosa ho sbagliato? Nel senso, dammi qualche consiglio, dacci qualche consiglio. Ma sì, guarda, me lo dico anch'io tutte le volte che rientro, questa qua è l'ultima, poi in realtà lo faccio sempre volentieri, ma consigli se mi posso permettere, di dare consigli è semplicemente di non farsi nessun piano, cioè avere una pianificazione di massima, ma alla fine essere pronti a stravolgere tutto in qualsiasi momento. Ti faccio un esempio stupidissimo. Anche noi siamo stati al mare, poi le vacanze estive sono lunghe, sono 2 settimane insieme, quindi 2 settimane io e lei, H24, reperibilità H24 praticamente. Però in quelle situazioni me ne sono accorto alla nostra prima vacanza, quando la mattina si correva per prepararsi, andare in spiaggia, lei magari controvoglia, stava facendo altre cose, a un certo punto mi sono bloccato e ho detto fermi tutti, noi siamo qui in appartamento, per quale motivo noi dobbiamo costringerci a stressarci per andare in spiaggia solo per il fatto che siamo qui al mare e allora la situazione vuole che noi la mattina andiamo in spiaggia. Ci si va il pomeriggio, cioè ci si deve proprio godere momento per momento le cose senza costringersi a farle, le regole e i tempi li dettano loro, se si sta dietro ai loro tempi alla fine diventa una vacanza quasi rilassante anche per il genitore, certo. Quasi. Beppe, oggi Martina ha 5 anni, avete iniziato questi viaggi quando ne aveva 2, quindi 3 anni fa. Tu queste viaggi, queste esperienze le hai condivise sui social e si è creata anche una sorta di community attorno a te. Gli altri papà cosa ti chiedono, cosa cercano? Perché vivono questi viaggi insieme a te? Ma devo dire che purtroppo, come in tutte queste cose, la partecipazione da parte del pubblico è a maggioranza femminile. I papà, invece, la cosa bella, i papà magari sono meno evidenti, ma più spesso mi scrivono in privato. Ho ricevuto dei messaggi molto emozionanti da papà che ti rendevi conto già solo leggendo il messaggio che era arrivato che si erano messi in gioco solo per il fatto di averti scritto quel messaggio e quindi sì, i papà mi hanno chiesto qualche consiglio sul viaggio, ma più che altro poi sul discorso separazione, su come gestire alcune emozioni, alcune situazioni anche con gli ex compagni, insomma con le ex compagne. Quindi è più questa parte qui che è venuta fuori dai papà, che non la richiesta di consigli di viaggio in sé, insomma. Ma devo dire, guarda Beppe, che anch'io per quella che riguarda insomma la mia piccolissima esperienza, registro anch'io questa differenza tra uomini e donne. Cioè i padri tendono più in generale a scriverti la loro esperienza in privato, quasi che volessero un pochino, no, proteggersi o che avessero paura, no, dei sentimenti, delle emotività in maniera maggiore. Ma tu scrivi che come dire, il rapporto con tua figlia è un po' come il sistema operativo di un telefono, va aggiornato spesso ed è la prima cosa che fate ogni volta che vi rincontrate. Come si gestisce questo tempo? Come recuperi questa distanza ogni volta che ripartite, che vi rivedete? Guarda, ti dico, non lo so, nel senso, ti spiego cosa intendo. Questa è una sensazione che ho sempre vissuto. E alcune volte può anche essere angosciante, nel senso che tu ti ritrovi a vedere tua figlia dopo 2 settimane e capisci subito che c'è qualcosa di diverso, magari anche solo fisicamente, nei capelli un po' più lunghi, in quella parola che 2 settimane prima non usava e che magari hai imparato in quei 15 giorni. E è angosciante perché la sensazione che tu ti stia perdendo qualcosa è la prima che arriva, quindi tu la vedi e dici: io ho perso qualcosa in queste 2 settimane. Però poi il tempo passato insieme ci risincronizza, cioè è come uno strumento che si accorda. E poi dopo quei 2 o 3 giorni ti rendi conto che quando ti saluti siete accordati e sincronizzati in modo differente. Quello che succede in mezzo non te lo so dire, nel senso che io ti so dire quello che facciamo, però cosa esattamente scatti non lo so. So che passando del tempo insieme con partecipazione questa magia in quei 2 o 3 giorni riesce ad accadere. Fin quando riesce ad accadere sarà comunque bello, nonostante il fatto di non poterla vedere spesso, certo, sia comunque una cosa non insomma, che non è il massimo, ecco. Sì, insomma, rimanendo poi dalla metafora musicale, no? Ognuno poi cerca la propria nota e si gioca le proprie note per cercare questa assonanza, questo nuovo accordo. Grazie davvero Beppe per la tua testimonianza. Ricordiamo Papà Travel Experience su tutti i siti, ed è il titolo anche del libro dove viene raccontata parte di questa esperienza, l'editore Ultra Collana Bar Papà. Ciao Beppe, grazie, buona domenica. Ciao ragazzi. Grazie, ciao, Beppe. Ciao. Grazie. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri. Padri Eterni. They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom è libertà, quella libertà che ti possono dare forse le parole, no? Forse solo le parole in certi contesti. Stiamo andando in carcere, lo abbiamo fatto spesso all'interno del nostro programma, no? Di affrontare la paternità dei detenuti, e oggi lo facciamo attraverso una serie di laboratori che sono diventati anche un libro intitolato Frammenti autobiografici dal carcere, laboratori di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi. E gli autori di questo libro sono Carla Chiappini e Marco Baglio, un libro che è uscito per Franco Angeli qualche mese fa, e con noi c'è proprio Carla Chiappini, che è autrice del libro e di questi laboratori di scrittura, è docente della Libera Università dell'autobiografia di Anghiari. Ciao Carla e benvenuta ai Padri Eterni. Ciao, chi sono? Ciao. Carla, cosa significa entrare nel carcere per parlare di paternità e farlo con detenuti e con uomini liberi insieme? Significa andare al cuore delle storie, saltando moltissimi passaggi intermedi, perché la scrittura ti immerge immediatamente nella memoria e riesce in un tempo ristretto a portare alla luce quelle che sono forse i ricordi più importanti o le emozioni più importanti. Quindi significa anche abbattere dei muri mentali, soprattutto non solo tra persone detenute e persone libere, ma anche dei muri mentali all'interno di noi, no? Certo. Questa memoria del padre è molto generativa per tutti, non solo per le persone detenute, no? E Verona, Milano, San Vittore, Parma, Milano Opera, Modena sono i 5 carceri dove siete entrati, da cui è nato il libro. Adesso tu stai lavorando in altri carceri del sud, ma cosa significa? Come funzionano questi laboratori? Guarda, sono modellati sullo stile della Libera Università dell'autobiografia, quindi hanno un ritmo, no? Si parte da una suggestione, da una poesia, da un'immagine, si dà tempo alla scrittura, ma un tempo determinato in realtà, quindi 10-15 minuti, e poi è il momento di condividere, che è un momento molto libero, cioè chi sceglie di leggere tutto quello che ha scritto, chi sceglie di leggerne una parte e chi invece decide magari di non leggere, oppure di chiedere a un altro quando le emozioni sono troppo forti e magari non si riesce a contenerle, ecco. Dopodiché diciamo che il patto d'ingresso, che non si giudica, non si interpreta, è la scrittura la protagonista, non si spiega. Ma Carla, quello che si è scritto è testo, insomma. Sì. Carla, oltre alle emozioni, no, e ai ricordi che ritornano a galla, come dicevi, questa scrittura autobiografica aiuta anche a riscoprire il proprio ruolo di padre, ad alimentarlo, insomma, in queste situazioni di coercizione, poi, perché una persona che viene privata della libertà viene privata a volte anche, no, della possibilità di poter esercitare la propria paternità. Certo. Beh, viene privata sempre, comunque, di gran parte dell'esercizio della paternità, purtroppo spesso viene privata di una certa autorevolezza, di una certa sicurezza. Cioè, se io sono un papà che ha sbagliato così tanto, come faccio a incarnare la regola? Questa è la grande domanda. Certo. E poi la domanda che sta sotto è: come faccio a spiegare ai miei figli perché sono qui? E a quella domanda molto molto difficilmente le persone trovano risposte adeguate, per cui le spiegazioni per i figli sono le più svariate: sto lavorando, sono via, ma ti penso, insomma è complicato. Quello che ha molto impressionato me invece è stato che, al di là della loro riflessione sulla paternità, ci fosse una grossissima emotività rispetto ai loro papà, quindi questa nostalgia del padre. Quindi riscoprirsi figli anche. Bravo, oltre che sì. E questo, la propria postura di figlio, la propria nostalgia proprio del padre, è stato forse un filo conduttore in tutte le carceri ed è il filo che ha suscitato più emozioni, mentre sull'essere padri c'è stato più un aspetto di incertezza, di esitazione, e sono saltate fuori tante paure. Ecco, questa parola è tornata più volte: nasceva mia figlia, ho avuto paura e sono scappato. Qualcuno ha scritto anche questo. Oppure nasceva mio figlio e mi sono sentito incapace, ma per fortuna c'era mia moglie. Ecco, questo è stato un tema abbastanza, questo stupore, questa forse impreparazione, no? I papà non portano i bimbi nella pancia, quindi c'è un po' questa sorpresa, questo adesso oddio cosa faccio. Certo. Questo è venuto fuori da entrambi i gruppi. Infatti, l'ultima domanda che volevo farti era proprio questa, ma erano più le parole simili o erano più le parole diverse, quelle usate dai papà detenuti rispetto ai papà liberi? No, erano più le parole simili, cioè la paura era trasversale, lo stupore era trasversale. Un papà libero ha scritto una cosa bellissima: io ho conosciuto mia figlia in ritardo, mia moglie la conosceva già, ce l'aveva già, e io ci ho messo più tempo. Certo, nei papà detenuti c'è un peso che è un po' il peso della colpa, che certo si sente molto di più, certo, questo sì. Ma le similitudini, le assomiglianze erano molto forti. Ringraziamo Carla Chiappini per essere stata qua con noi. Ricordiamo Frammenti autobiografici dal carcere, laboratorio di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi, Franco Angeli editore. Per tutte le informazioni sulla Libera Università dell'autobiografia di Anghiari, lua.it è il sito internet. Ciao Carla, grazie, buona domenica. Ciao, grazie a voi, Carla. Grazie. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, Marco Lombardo oggi in assistenza, Valeria Bernardi alla parte tecnica. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it il sito per riascoltarci e da cui scaricare poi il podcast. Padre Eterni @radio24.it invece se volete contattarci. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana a te. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao!